se ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo. Dal cielo piovono cocktail, polisi in elicottero. Su Sesto San Giovanni, manco un'ora arriva il lunedì e non ti bacio da due anni. Cara amica mia, promettimi che persa nei tuoi giri, se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto mentre fai due tiri. Ti prego, parliamo di te, che se parlo di me mi manca il respiro. Ho perso troppe ore di sonno, che se dopo mi sdraio dormo come un ghiro. E ho fatto le cose più brutte, che se mamma sapesse rimarrebbe male. E ho fatto le cose più brutte, guarda scusa mamma, è una scusa per cantare. Ti prego amore mio, promettimi che perse nei tuoi giri, se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto mentre fai due tiri. Il vento nei capelli quando sei qui davanti e sono sempre fermi. E non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e dormi sempre insieme al gatto mentre ti rigiri, mentre ti rigiri.